Capitolo 4. Malinalli lavava i panni al fiume appena fuori da Ciolula. Si sentiva profondamente a disagio. C'era molto rumore, troppo, non solo quello che facevano le sue mani, strofinando e sciacquando i panni, ma anche quello che aveva nella testa. Tutto intorno a lei parlava di irrequietezza. Il fiume in cui lavava i panni rendeva musicale la campagna rotolando con forza sui sassi. A quel rumore di fondo bisognava poi aggiungere lo schiamazzo degli uccelli, delle rane, dei grilli, dei cani e degli spagnoli stessi, i nuovi abitanti di quelle terre, che contribuivano al frastuono generale con lo scandaloso rumore delle loro armature, dei cannoni e degli archibugi. Malinalli aveva bisogno di silenzio, di calma. Nel Popol Vuh, il libro sacro dei suoi antenati, si legge che solo nel silenzio, nella calma assoluta, nell'oscurità della notte, nell'assenza di luce, può nascere la creazione. E Malinalli aveva bisogno di silenzio per creare cose nuove, sonore parole, le parole giuste, le parole necessarie. Qualche tempo prima aveva lasciato il servizio del signor Portocarrero, perché Cortés l'aveva nominata la lengua, cioè colei che doveva tradurre in nahuatl le sue parole. E dal Nahuatl allo spagnolo, quelle degli invitati di Montezuma. Indubbiamente Malinalli aveva imparato lo spagnolo con una velocità prodigiosa, ma ancora non si poteva dire che lo dominasse alla perfezione, e spesso doveva chiedere aiuto ad Aguilar per tradurre correttamente e riuscire a far sì che ciò che diceva avesse senso sia nella mente degli spagnoli sia in quella dei Mexica. Essere la lingua era una grande responsabilità. Lei non voleva sbagliare, non voleva fare errori e non capiva come avrebbe potuto riuscirci, dato che era difficilissimo tradurre da una lingua all'altra concetti tanto complicati. Ogni volta che pronunciamo una parola, viaggiamo con la memoria fino a centinaia di generazioni addietro. Questo Malinalli lo sapeva. Ogni volta che nominiamo Meteol, il creatore della dualità Ometecitli e Omecitual, il principio maschile e quello femminile, ci installiamo nel momento stesso della creazione. Tale è il potere della parola parlata. Ma com'è possibile rinchiudere in una sola parola Ometeol, colui che non ha forma, il Signore che non nasce e non muore, colui che l'acqua non può bagnare, il fuoco non può bruciare, il vento non può spostare, la terra non può coprire? Impossibile. Analogamente, anche Cortés sembrava in difficoltà quando doveva spiegare certi concetti della sua religione. Il giorno in cui Malinalli gli aveva chiesto come si chiamasse la sposa del suo dio, per esempio, Cortés le aveva risposto: Dio non ha moglie. Ma non può essere. Perché no? Perché senza ventre e senza oscurità non possono nascere né nella vita né nella luce. È nel fondo più fondo di sé che la madre terra produce le pietre preziose. È nell'oscurità del ventre che prendono forma uomini e dei. Senza ventre non può esserci Dio. Cortés l'aveva guardata negli occhi e alla luce del giorno aveva visto l'abisso nero che contenevano. Era stato un momento di intenso contatto, eppure Cortés aveva distolto lo sguardo e, staccandosi bruscamente da lei, spaventato da quella sensazione di complicità e di appartenenza, aveva cercato di chiudere la conversazione. Anche perché, al di là di tutto, gli sembrava molto strano discutere di questioni teologiche con un'indigena, con una semplice schiava. Cosa vuoi saperne tu di Dio? I tuoi dèi esigono tutto il sangue del mondo per esistere. Il nostro invece ci regala il suo ogni volta che facciamo la comunione. Siamo noi che beviamo il suo sangue. Malinalli non aveva capito bene quelle parole. Ciò che voleva ascoltare, ciò che il suo cervello voleva poter assimilare, era che il Dio degli spagnoli è un Dio liquido, perché è nel sangue, nel segreto della carne, nel segreto dell'amore che risiede l'eternità dell'universo. E lei desiderava con tutte le sue forze poter credere in una divinità simile. Allora, il tuo è un Dio liquido? Aveva domandato con entusiasmo. Liquido? Sì. Non è detto che sta nel sangue che voi bevete? Ma sì, donna, e adesso rispondi un po' tu. I tuoi dèi versano il proprio sangue per voi? No? E allora? Non dovete credere in loro. Con le lacrime agli occhi, Malinà le aveva ribattuto. Io non credo che si debba per forza versare il sangue. Credo nel tuo Dio liquido. Mi piace che sia un Dio sempre versato e che si manifesti anche nelle mie lacrime. Mi piace che sia severo, rigido, giusto, che la sua ira possa far sparire o creare l'universo in un solo giorno. Ma non credo che possa farlo senza acqua o senza ventre. Perché esistano il fiore e il canto. Deve esserci l'acqua. È nell'acqua che nascono le parole e la materia prende forma. La vita può nascere anche senza ventre, ma allora non resta a lungo sulla terra. Invece tutto ciò che si genera nell'oscurità, nel fondo delle grotte, come le pietre preziose, l'oro, può durare nel tempo. Dicono che al di là del mare ci sia il luogo dove sorgono le montagne più alte e che là nostra madre terra conservi molta, moltissima acqua per fecondare le coltivazioni. Qui invece, nella mia terra, ci sono grotte profonde in cui si forgiano grandi tesori. Davvero? E che genere di tesori? E dove si trovano quelle grotte? Malinalli non gli aveva risposto. Aveva preferito fare finta di non saperlo. Quell'interruzione l'aveva infastidita. Evidentemente a Cortés non importava nulla della sua religione, dei suoi dèi, delle sue credenze o di lei stessa. Ormai aveva capito che a quell'uomo interessavano solo i tesori materiali. Quindi aveva chiesto il permesso di allontanarsi e se n'era andata a piangere al fiume. Erano cose come questa e molte altre ancora a rendere difficile la comprensione fra loro due. Malinalli sapeva che la parola colora la memoria e che ogni volta che si pronuncia un nome si semina un'immagine, così come un campo, ogni volta che riceve l'acqua piovana, produce germogli. Allo stesso modo, quando la parola, inumidita dalla saliva della bocca, nomina un oggetto, tutto ciò che si è seminato nella mente fruttifica. Per esempio, l'idea di un Dio vero ed eterno che gli spagnoli andavano predicando aveva fruttificato nella sua mente. Perché già da prima i suoi antenati ve l'avevano seminata. Da loro Malinalli aveva imparato che le cose cominciano a esistere quando vengono nominate, quando le si inumidisce, quando le si dipinge. Per lei il fiore e il canto erano un dono degli dèi, perché è grazie agli dèi che tutto esiste. Dio respirava nella sua parola e dava la vita per suo tramite. Quindi era per opera e grazia del Signore, del vicino e dell'insieme che era possibile dipingere nuove idee, nuovi concetti nella mente degli spagnoli e dei Mexica. Essere la lingua richiedeva un grande impegno spirituale e doveva mettersi al servizio degli dèi con tutta se stessa, se voleva che la sua lingua diventasse parte dell'apparato sonoro della divinità e che la sua voce spargesse per il cosmo il senso stesso dell'esistenza. Eppure spesso Malinalli non si sentiva all'altezza. A volte, mentre parlava, si lasciava guidare dai suoi desideri e allora la voce che le usciva dalla bocca era la voce della paura. Paura di non essere fedele ai suoi dèi, paura di sbagliare, di non essere all'altezza di quella responsabilità e, perché no, anche paura del potere, di avere troppo potere. Prima di allora Malinalli non aveva mai sperimentato la sensazione di essere al comando, ma ben presto aveva capito che chi maneggia l'informazione e i significati acquista potere e che quando traduceva era lei a dominare la situazione. Aveva inoltre capito che la parola può essere un'arma, la migliore delle armi. La parola viaggia alla velocità del lampo, percorre le valli, attraversa mari e monti, portando l'informazione desiderata a monarchi e vassalli, crea timori e speranze, stringe alleanze, elimina nemici, cambia la direzione degli eventi. La parola può essere un guerriero sacro, un cavaliere aquila o un semplice mercenario. Quando ha carattere divino, trasforma lo spazio vuoto all'interno della bocca, nel centro della creazione, in quel vano. Ripete l'atto con cui, quando il principio femminile e quello maschile si unirono, ebbe origine l'universo. Malinalli pensava che per far nascere la vita, per realizzare l'unione dei due principi, l'incontro deve avvenire in uno spazio circolare che lo protegga e lo avvolga, e che le forme arrotondate sono le più adatte a proteggere il creato, proprio perché lo circondano. Le forme aguzze invece aprono, separano. La bocca, in quanto principio femminile, spazio vuoto, cavità, è il luogo più idoneo alla generazione delle parole, mentre la lingua, principio maschile, allungata, appuntita, fallica, è la più indicata per introdurre la parola creata, quell'universo di informazione in altre menti che essa può fecondare. Ma che cosa feconderà? Questa è la grande incognita. Malinalli pensava che ci sono solo due possibilità: unione e separazione, creazione e distruzione, amore e odio, e che il risultato finale può essere determinato dalla lingua, ossia da lei stessa. Lei poteva far sì che le parole unissero due dialoganti in un unico proponimento, avvolgendoli e coprendoli, oppure che li separassero, trasformandoli in oppositori, divisi da idee inconciliabili, solitari, isolati, abbandonati. Lei stessa, in quanto schiava, per molti anni aveva sperimentato cosa significhi vivere senza voce, senza essere tenuti in considerazione da nessuno, senza poter prendere decisioni. Quel tempo ormai le sembrava lontanissimo. Lei, la schiava abituata a ricevere ordini in silenzio, che non poteva nemmeno alzare gli occhi in viso a un uomo, ora aveva voce ed erano gli uomini a guardarla negli occhi in attesa delle parole che uscivano dalla sua bocca. Lei, che era stata più volte regalata, che altri avevano scartato come un oggetto inutile, ora veniva apprezzata e valeva quanto una misura di cacao o anche di più. Disgraziatamente quella posizione di privilegio era molto instabile e poteva cambiare da un momento all'altro. Ogni giorno Malinalli rischiava la vita. Solo il trionfo degli spagnoli poteva garantirle la libertà. Per questo, con parole velate, aveva detto più volte che gli spagnoli erano davvero inviati del suo signore Quetzalcoatl e che Cortés stesso era l'incarnazione del Dio. Malinalli era nella posizione di decidere cosa si diceva e cosa si taceva, cosa si affermava e cosa si negava, cosa si rendeva di pubblico dominio e cosa si teneva segreto, e ciò costituiva per lei un grosso problema. Perché non si trattava solo di dire o non dire o di sostituire un nome con un altro, lei sapeva che ogni passo correva anche il rischio di cambiare il significato delle cose. Mentre le traduceva, Malinalli poteva alterare leggermente il senso delle parole, imponendo agli altri la sua visione dei fatti, ma così facendo si metteva in franca e diretta competizione con gli dèi e la cosa la riempiva di terrore. Tanta temerarietà poteva far arrabbiare gli dèi, che l'avrebbero severamente punita e lei aveva paura del castigo. Poteva cercare di evitarlo, tenendosi il più aderente possibile al significato delle parole. Ma se in Messica fossero arrivati a dubitare del fatto che gli spagnoli erano invitati di Quetzalcoatl, cosa di cui nemmeno lei era più molto sicura, in men che non si dica anche lei sarebbe stata annientata insieme a loro. Si trovava quindi in una situazione delicatissima: o si sforzava di servire umilmente gli dèi, restando fedele al significato che essi avevano dato al mondo, oppure seguiva i suoi istinti terreni, primari, dando ad ogni parola e ad ogni azione il significato che le conveniva di più. La seconda opzione, ovviamente, era un vero e proprio colpo di mano contro gli dèi e l'idea di come essi avrebbero potuto reagire la colmava di paure, di sensi di colpa, ma non vedeva alternative. La paura e i sensi di colpa di Malinalli somigliavano a quelli di Montezuma, che pieno di timore, piangente e tremante, si aspettava di essere punito dagli dèi perché tempo addietro i suoi Mexica avevano distrutto Tula e praticato sacrifici umani in quel luogo sacro a Quetzalcoatl. Prima, nella Tula Tolteca, nessuno aveva mai sentito il bisogno di quelle pratiche cruente. Per mantenere l'equilibrio nel cosmo bastava che Quetzalcoatl accendesse il fuoco nuovo e accompagnasse il sole nella sua traiettoria lungo la volta celeste. Prima dell'arrivo dei Mexica, il sole non si nutriva di sangue umano, non lo chiedeva, non lo pretendeva. La gigantesca colpa che gli gravava sulle spalle lo spingeva a credere che fosse ormai giunto il momento di pagare i suoi debiti e che con l'arrivo degli spagnoli il suo impero avesse i giorni contati. Malinalli poteva impedirlo, poteva dire forte e chiaro che gli spagnoli non erano gli inviati di Quetzalcoatl e in un attimo sarebbero stati spazzati via, ma lei sarebbe morta con loro e ovviamente non poteva morire schiava. Anelava a vivere in libertà, a non passare più di mano in mano, condannata a una vita errabonda. Tornare indietro ormai non era più possibile, Non c'era modo di uscire illesa da quella situazione. Ma Linaldi conosceva perfettamente la crudeltà di Montezuma e sapeva che se gli spagnoli avessero fallito, lei sarebbe stata uccisa. Davanti a una simile alternativa, era ovvio che preferisse vedere trionfare gli stranieri e se per assicurarne la vittoria doveva alimentare l'idea che fossero divinità venute dal mare, ebbene lei l'avrebbe fatto, anche se ormai non ci credeva più. Il sogno di poter fare un giorno tutto ciò che voleva, sposarsi con un uomo di sua scelta e avere dei figli senza la paura che fossero venduti come schiavi o destinati al sacrificio, era abbastanza seducente da indurla a portare avanti l'inganno. La cosa che desiderava di più al mondo era avere un pezzo di terra tutto suo, in cui seminare i chicchi di mais che portava sempre con sé, quelli che avevano fatto parte del raccolto della nonna. Se gli spagnoli potevano realizzare i suoi sogni, valeva la pena aiutarli. Chiaramente questo modo di ragionare non alleviava i suoi sensi di colpa, né la rendeva più facile capire cosa dovesse dire e cosa invece tacere, fino a che punto è lecito difendere la vita con la menzogna, e che gli assicurava che fosse proprio una menzogna. Forse il suo giudizio non era corretto, forse gli spagnoli erano davvero gli inviati di Quetzalcoatl e lei era tenuta ad aiutarli fino alla morte. In tal caso doveva condividere con loro anche le informazioni che in gran segreto le aveva confidato una donna di Cholula. Incantata dal carattere disinvolto di Malinalli, dalla sua bellezza e dalla sua forza fisica, quella donna l'avrebbe voluta come sposa di suo figlio e per salvarle la vita le aveva confidato che in città si stava preparando un'imboscata contro gli spagnoli. Il piano era di imprigionarli avvolgendoli nelle loro amache e di portarli via a Tenochtitlan. La donna le aveva raccomandato di lasciare la città prima della catastrofe e così dopo avrebbe potuto tornare e sposare suo figlio. Ora Malinalli aveva la responsabilità di decidere se condividere o no quell'informazione con gli spagnoli. Cholula era un luogo sacro, sede di un importante tempio di Quetzalcoatl. Difendere o attaccare Cholula significava difendere o attaccare Quetzalcoatl. Malinalli era più confusa che mai. Sapeva solo di avere bisogno di un po' di silenzio per schiarirsi le idee. Implorò il silenzio da tutti i suoi dèi. A tormentarla più ancora del rumore esterno era quello interno. Nel suo cervello c'erano voci che le dicevano di tacere, di non parlare, di non confidare agli spagnoli le preziose informazioni da cui dipendeva la sua vita, perché c'era qualcosa che non andava in loro e forse gli stranieri non erano quelli che pensava lei. I loro comportamenti, infatti, non corrispondevano per nulla al modello ideale che aveva in mente. Ma Linalli ne era molto delusa. Innanzitutto c'era una grave incongruenza nel nome di Cortés. Cortese significa delicato, rispettoso, e a lei non sembrava proprio che Cortés fosse così, e men che meno gli altri. Trovava inaccettabile che gli inviati degli dèi si esprimessero a quel modo, che fossero tanto bruschi, tanto diretti, tanto volgari, che in preda alla collera potessero addirittura urlare insulti al loro stesso dio. A paragone della dolcezza e della poesia dei Nahuatl, lo spagnolo le risultava un po' troppo aggressivo. Ma c'era qualcosa di ancora più sgradevole della mancanza di delicatezza con cui gli spagnoli sbraitavano ordini. Ed era il loro odore. Non avrebbe mai immaginato che i messi di Quetzalcoatl potessero puzzare tanto. La pulizia era pratica comune tra gli indigeni, mentre gli spagnoli non si lavavano mai e portavano sempre gli stessi vestiti, sporchi e maleodoranti. Sole e acqua non potevano fare nulla contro quel fetore, per quanto sbattesse e risbattesse i panni sulle pietre del fiume. Ma Linalli non riusciva a togliergli quel cattivo odore di ferro putrido, di sudore metallico, di armatura ossidata. Tantomeno le sembrava normale l'interesse che gli spagnoli, soprattutto Cortés, mostravano per loro. Se fossero stati davvero gli emissari di Quetzalcoatl, si sarebbero preoccupati della terra, delle semine, di assicurare il nutrimento agli esseri umani. Invece si comportavano in tutt'altro modo. Non degnavano di uno sguardo i campi di mais, sapevano solo abbuffarsi. Se Quetzalcoatl aveva rubato il seme del mais al monte del nostro sostentamento per darlo agli uomini, com'era possibile che i suoi emissari non volessero sapere come era trattato quel dono prezioso? Non erano curiosi di sapere se quando mangiavano gli uomini si ricordavano dell'origine divina del mais? Non ci tenevano a controllare se ne avevano cura e se lo veneravano come qualcosa di sacro? Non li preoccupava l'idea che gli uomini avessero smesso di coltivare il mais? Com'era possibile tutto ciò? Non sapevano che se gli uomini avessero smesso di seminarlo e di raccoglierlo, il mais sarebbe morto, che la pannocchia ha bisogno dell'intervento umano per essere spogliata delle foglie che la ricoprono in modo che i semi possano riprodursi liberamente, che il mais non può sopravvivere senza l'uomo, né l'uomo senza il mais. Il fatto che il mais abbia bisogno degli uomini per riprodursi dimostra chiaramente che si tratta di un dono che gli dèi hanno destinato agli uomini stessi, perché senza di loro non avrebbero avuto nessuno a cui regalarlo, e perché senza il mais gli uomini non avrebbero potuto sostentarsi e riprodurre la vita. Ignoravano dunque gli emissari di Quetzalcoatl che noi siamo terra, che dalla terra nasciamo e la terra ci ingoia, e che quando la terra finirà, quando la vita della terra sarà giunta a termine, quando la terra sarà stanca e non farà più germogliare il mais, quando la madre terra non aprirà più il suo cuore per noi, anche il genere umano cesserà di esistere. E allora, a cosa sarà servito accumulare tanto oro, se non ci sarà più il mais? Com'era possibile che la prima parola che Cortés si era premurato di apprendere in Nahuatl fosse per l'appunto oro e non mais? L'oro, Teoquitatl, era considerato l'escremento degli dèi. Nient'altro che una scoria, e Malinalli non riusciva proprio a capire quell'ansia di farne incetta. Lei era convinta che il giorno in cui il chicco di mais non fosse più stato rispettato e valorizzato come qualcosa di sacro, gli uomini sarebbero stati in grave pericolo, e se lei, una semplice mortale, ne era consapevole, com'era possibile che gli emissari di Quetzalcoatl, coloro che erano arrivati in suo nome, per quanto il nome fosse diverso, e che comunicavano direttamente con lui, non lo sapessero? Che quei messi venissero più da parte di Tezcatlipoca che non di Quetzalcoatl. Tezcatlipoca era il fratello di Quetzalcoatl, quello che una volta l'aveva ingannato con uno specchio nero, e Malinalli aveva l'impressione che gli spagnoli stessero facendo qualcosa di simile con gli indigeni, che li ingannassero con i loro lucidi specchi. Tezcatlipoca, che cercava sempre di usurpare il potere di suo fratello, era un grande mago. E grazie a uno dei suoi artifici aveva inviato a Quetzalcoatl uno specchio nero. Guardandosi in quello specchio, il dio aveva visto la maschera della sua falsa santità, cioè la sua parte oscura. Sconvolto da quell'immagine, Quetzalcoatl si era ubriacato fino a perdere la ragione e a fornicare con sua sorella. Il giorno dopo, pieno di vergogna, era partito da Tula per cercare se stesso e recuperare la sua luce, promettendo che un giorno sarebbe tornato. Ora, la grande incognita era se fosse tornato davvero. Malinalli era molto preoccupata, indipendentemente dal fatto che gli spagnoli riuscissero meno ad abbattere Montezuma, dall'esito di quello scontro dipendevano la sua vita e la sua libertà. Tutto era cominciato qualche mese prima, quando del tutto casualmente Cortés aveva notato che lei parlava il Nahuatl, mentre Aguilar, durante la prigionia, aveva imparato solo il Maya, del tutto inutile per comunicare con gli inviati di Montezuma. Il capo degli spagnoli le aveva dunque chiesto di fargli da interprete, promettendogli in cambio la libertà. Da quel momento in poi gli eventi si erano susseguiti a una velocità straordinaria e Malinalli era stata presa in un vortice che non le lasciava via d'uscita. Davanti agli occhi le scorrevano i momenti che avevano segnato il suo destino, a partire dal giorno in cui gli spagnoli erano sbarcati su quelle terre. Rivedeva il giorno in cui il cacico del Tabasco l'aveva convocata insieme ad altre 19 giovani che dovevano essere regalate ai nuovi venuti come tassa di guerra dopo la battaglia di Cintla, vinta dagli spagnoli. Malinalli ricordava bene ciò che lei e le altre ragazze si erano dette durante il viaggio verso l'accampamento spagnolo. Sussurrando, quasi fosse un gran segreto, avevano accennato alla possibilità che ci fosse un nesso tra quegli uomini venuti dal mare e Quetzalcoatl. L'anno in corso, infatti, era un anno Uno Canna, che secondo il calendario Mexica è l'anno di Quetzalcoatl, nato nell'anno Uno Canna e morto dopo un ciclo completo di 52 anni, sempre nell'Uno Canna. Una coincidenza da non sottovalutare, che gli stranieri fossero sbarcati proprio in quell'anno. Una delle ragazze, inoltre, aveva sentito dire che gli anni Uno Canna sono infausti per i re. Se qualcosa di negativo accade nell'anno Uno Ramarro, il male colpisce uomini, donne e anziani. Se la sventura capita nell'anno uno giaguaro, uno cervo o uno fiore, a farne le spese sono i bambini, ma se accade nell'anno uno canna, cadono i re. La dimostrazione stava nel fatto che gli stranieri si erano scontrati con gli abitanti di Citla e li avevano sconfitti. Lo stesso destino sarebbe toccato ora a Montezuma, e quindi era lecito pensare che gli spagnoli erano venuti per conquistare tutto il Messico e per instaurare di nuovo il regno di Quetzalcoatl. Così almeno la pensava Malinalli, che nell'ascoltare quelle parole si era rallegrata e aveva concepito mille speranze, illusioni e desideri di cambiamento. Il regno dei Mexica, basato sui sacrifici umani e sulla schiavitù, stava per scomparire e ciò le dava una grande serenità. Molto lontano da lì, nel palazzo di Montezuma, una conversazione analoga si era svolta tra l'imperatore, suo fratello Cuitlahuac e suo cugino Cuauhtémoc. Questi ultimi pensavano che Cortés e i suoi uomini fossero soltanto una comunissima banda di predoni e non divinità venute dal mare, ma Montezuma aveva deciso che, indipendentemente da ciò, essi andavano trattati con tutti i riguardi, perché in fondo anche i predoni sono sotto la protezione di Quetzalcoatl, e gli aveva mandato incontro il suo ambasciatore principale, Teotlamacaschi, dicendo: «Va, non tardare, e porgi omaggio al nostro Signore. Digli che è qui il suo luogotenente Montezuma a inviarti, che gli manda queste cose per onorare il suo arrivo». Probabilmente Montezuma non si era reso conto di quanto i suoi sudditi fossero rimasti sconcertati da tale decisione, ma vedendo che l'imperatore in persona riceveva gli stranieri con tutti gli onori e addirittura si metteva ai loro ordini, anche gli altri si erano sentiti in dovere di fare altrettanto. Il trattamento riservato agli spagnoli indicava a chiare lettere che essi erano più importanti dell'imperatore, ma alla luce degli ultimi avvenimenti Malinalli non era più tanto convinta. Incontrando gli ambasciatori di Montezuma, infatti, Cortés aveva subito espresso chiaramente il suo smodato interesse per loro. Non era rimasto colpito né dalla maestria dell'arte piumaria, né dalla magnificenza dei tessuti, né dai gioielli che gli erano stati offerti in dono. Solo l'oro gli interessava. Aveva proibito agli altri membri della spedizione di barattare privatamente il metallo giallo e appena fuori dall'accampamento aveva fatto collocare un tavolo dove gli indigeni potevano concludere i loro baratti in modo ufficiale. E così ogni giorno Tononaki e Mexica portavano i loro oggetti d'oro a Cortés, il quale tramite i suoi servi dava in cambio perline di vetro, specchi, spille e forbici. Anche Malinalli aveva ricevuto in dono una collana di perline di vetro e uno specchio. Quegli oggetti brillanti le piacevano. Lei li capiva, gli specchi. Anche in quel momento, mentre lavava i panni nel fiume, Malinalli osservava la sua immagine riflessa nell'acqua. Quel viso trasudava paura, non le piaceva guardarlo, le dava fastidio, la faceva ammalare. Ripensò a quando da bambina si era ammalata e per guarirla le avevano fatto guardare la sua immagine riflessa in un recipiente pieno d'acqua. Chiese al fiume di parlarle, di guarirla, di dirle se sta facendo bene, se non stava sbagliando. Sapeva che l'acqua ci parla da tutti i suoi recipienti. La donna le aveva raccontato che nell'Anahuac c'è un grande lago che riflette l'immagine di cose non ancora accadute e che in quel luogo magico i sacerdoti Mexica avevano visto un'aquila divorare un serpente. Il fiume in cui lavava i panni però non parlava, non le diceva niente e Malinalli non riusciva a vedervi nulla a parte il sudiciume degli spagnoli. Il mare è uno spazio pieno di riflessi e anche i laghi, i fiumi lo sono. In quei riflessi ci sono il sole e il dio dell'acqua, e così come il sole si riflette nella luna, Malinalli sapeva di potersi ritrovare in ogni riflesso che la luce strappa all'acqua, alla pietra e agli occhi degli uomini. Ognuno di noi, quando maneggia oggetti o pietre brillanti, si riflette nel cosmo come in un gioco di specchi. Il sole non sa di brillare se non può vedersi, deve vedere il proprio riflesso per comprendere la sua grandezza. Per questo abbiamo tutti bisogno degli specchi per riconoscerci. Tula, la città di Quetzalcoatl, era stata costruita per fare da specchio al cielo. A Malinalli piaceva usare oggetti brillanti perché voleva diventare uno specchio in cui Quetzalcoatl potesse specchiarsi liberamente e le collane erano il suo specchio più bello. Malinalli tolse dalla bisaccia quella che le aveva regalato Cortés e la mise al collo, sperando di essere vista dal Dio e di incontrarsi con lui in quei riflessi luminosi. Si guardò di nuovo nel fiume e stavolta l'acqua le mostrò una serie di piccoli riflessi, uno accanto all'altro, come una linea ondulata di bagliori. Subito le tornò in mente il serpente d'argento, formato dai soldati spagnoli in marcia uno dietro l'altro, con il riverbero del sole sulle armature, e lo ricollegò alle colonne di soldati di Tula che camminavano uno dietro l'altro, guardando la propria immagine riflessa negli specchi che portavano legati alla schiena. Malinalli non lo sapeva, ma anche Cortés era lì, a pochi passi da lei. Approfittando del fatto che il cielo era limpido e sgombro di nubi, il capitano aveva deciso di andare in riva al mare per rilassarsi un po'. Non aveva più voglia di disegnare ruote della fortuna sul suo diario. Di solito, quando aveva bisogno di calmarsi e di sgombrare la mente, disegnava ruote della fortuna, attività che gli permetteva di raggiungere uno stato di rilassamento profondo. Gli piaceva l'idea di un tempo circolare che ora mette l'uomo nella posizione più elevata e subito dopo lo sprofonda in quella più bassa. Ma quel giorno alla sua mente si era imposta un'altra idea che l'aveva costretto a deporre carta e penna. Mentre disegnava il punto più basso della ruota, infatti, aveva sentito che era proprio quello il momento più importante del suo moto, quello in cui tocca il suolo, l'istante in cui a un certo punto della ruota si unisce alla terra. Tutto il resto è campato in aria. Fluttua, non esiste, non è né passato né futuro. Quell'intuizione l'aveva spinto ad alzare gli occhi e gli era sembrato di vedere il mondo in modo nuovo. Si era sentito invadere da una sensazione piacevolissima, quelle nuove terre che fino a un attimo prima gli sembravano strane, pericolose, inospitali, quelle regioni che con il loro calore, gli insetti, l'umidità e le piante velenose l'avevano riempito di terrore. Improvvisamente gli si mostravano in un'altra luce e tutto gli sembrava più accogliente. Sentiva che quella terra era sua, gli apparteneva. In realtà non vi era sbarcato, perché in qualche modo era sempre stato lì. Con una grande pace nel cuore, cosa che gli accadeva di rado, aveva deciso di andare a fare un tuffo nel fiume, ma sulla riva aveva visto Malinalli, che si era già tolta il suo bel huipil per fare il bagno. Cortés osservò il suo corpo nudo, guardò la schiena, i fianchi, le cosce, i capelli e si eccitò come non gli era mai capitato prima. Avvertendo la sua presenza, Malinalli si voltò e Cortés vide i suoi seni adolescenti, grossi, con i capezzoli turgidi che sembravano puntare dritto al suo cuore. Ebbe una grande erezione e sentì una terribile urgenza di possederla, ma sapeva che era proibito. Così si immerse fino alla vita nell'acqua fredda per vedere se l'erezione gli passava. Si avvicinò alla ragazza e cercò di intavolare una conversazione che deviasse i suoi pensieri. Cosa stai facendo? Mi impregno di Tlaloc, il dio dell'acqua. In acqua, uno di fronte all'altra, Cortés e Malinalli si guardarono gli occhi e ci lessero il loro destino, la loro unione inevitabile. Cortés comprese che era Malinalli la sua vera conquista e che solo lì, nell'abisso di quegli occhi neri, avrebbe trovato i gioielli preziosi che stava cercando. Malinalli sentì che nelle labbra di Cortés e nella sua saliva c'era sicuramente un pezzetto del suo dio liquido, un frammento d'eternità che doveva assolutamente assaggiare e conservare presso di sé. In cielo le nuvole cominciarono a muoversi straordinariamente veloci e l'aria si caricò d'umidità, lubrificando le piume degli uccelli, le foglie degli alberi e la vagina di Malinalli. Come il pene di Cortés, anche quei nuvoloni grigi si sforzavano di trattenere l'acqua, di non lasciarla cadere, di non scaricarsi di quel liquido prezioso. Prima di gettarsi su di lei, Cortés ebbe il tempo di domandare: «E com'è questo tuo Dio?» E prima di essere posseduta, Malinalli ebbe il tempo di rispondere: «Eterno come il tuo, solo che la sua eternità non è invisibile. Il nostro Dio evapora, realizza disegni nel cielo, si muove capricciosamente nelle nuvole, grida la sua presenza nella pioggia, spargendo ovunque la consapevolezza di sé e placando la nostra sete e la nostra paura». Con occhi ardenti di desiderio, Cortés le mise una mano sul seno, interrompendola: «Hai paura?» Malinalli fece segno di no con la testa. Allora Cortés la carezzò lentamente, con la mano umida, e prese tra le dita uno dei suoi capezzoli. Malinalli cominciò a tremare. Cortés le ordinò di parlargli ancora del suo Dio. Pensava di soddisfare un po' il suo desiderio, soltanto un po', senza rompere la promessa che insieme a tutti i suoi compagni aveva fatto di astenersi dal commercio sessuale con l'indigene. Malinalli continuò come poté il suo discorso, mentre Cortés le prendeva il capezzolo tra le labbra e lo leccava con lussuria. Il nostro Dio dà eternamente la vita, per questo diciamo che è il Dio dell'acqua. Ma Cortés non ce la faceva più, voleva possedere Malinalli e anche il suo Dio. Il piacere gli esplose nella testa e il fuoco del suo cuore desiderò di far evaporare per sempre quel dio chiamato Tlaloc, il dio acqua. Sollevò Malinalli di peso, uscì dall'acqua, la distese sulla riva del fiume e la penetrò con forza. In quel preciso momento anche il cielo esplose e rovesciò la sua acqua su di loro. Cortés non si accorse dei lampi, sentiva solo il tepore nascosto al centro del corpo di Malinalli e il suo membro che spingeva per allargare le pareti della sua vagina. Non gli importava se quella sua forza e la sua passione le faceva male, non gli importava se i fulmini si scaricavano a terra, poco lontano da loro, non gli importava di nient'altro se non di entrare e uscire da quel corpo. Malinalli rimase zitta, i suoi occhi, più belli che mai, divennero acquosi, pieni di lacrime trattenute. A ogni spinta sentiva il petto nudo e peloso di Cortés sfiorarle i seni e ne provava piacere. Era la risposta alle sue fantasticherie su ciò che si prova a toccare a una pelle coperta di peli. Mentre ancora subiva violenza, quasi in delirio, Malinalli ricordò che un giorno, prima di morire, la nonna, con una voce così dolce da farle credere che tutti gli uccelli del mondo le avessero deposto nella gola, il suo spirito le aveva detto: «Ci sono lacrime che sono cure e benedizione e che vengono dal Signore, del vicino e dell'insieme. La loro acqua è espressione di una voce liquida che canta la frammentazione della luce. È l'essenza del nostro Dio che unisce gli estremi e riconcilia l'inconciliabile». Per alcuni minuti, che a lei sembravano eterni, Cortés la penetrò più e più volte selvaggiamente, come se tutta la forza della natura si fosse concentrata in lui. Nel frattempo piove talmente forte che passione e orgasmo furono annegati dall'acqua insieme alle lacrime di Malinalli, che per un momento smise di essere la lingua per ridiventare una semplice donna muta e senza voce, una donna sulle cui spalle non gravava l'enorme responsabilità di edificare con la sua saliva la conquista. Diversamente da ciò che si sarebbe aspettata, Malinalli accolse con sollievo quel ritorno alla sottomissione, la sensazione di essere un oggetto al servizio degli altri, infatti, le era assai più familiare che non quella di essere artefice del proprio destino. Pareva che soltanto Dio avesse assistito a quella furia lussuriosa, a quella vendetta appassionata, a quell'odio amoroso. Ma non era vero. Jaramillo, uno dei capitani che combattevano con Cortés, aveva visto tutto e l'immagine di Malinalli gli era rimasta incisa sulla retina. Da allora in poi, quell'uomo si sentì irrimediabilmente attratto, come mai gli era capitato prima, dalla donna che Cortés, il suo capo, aveva posseduto.